più di 15 anni, si viene chi vuole ovviamente, però è organizzato questo presidio sotto il carcere di Re Bibbia. Invitiamo tutti e tutte a venire, in fondo non dura molto, dalle 10 di mattina al primo pomeriggio. Perché questo? L'appuntamento storico, diciamo, da sempre per dare un saluto a chi, diciamo, ne riceve pochi, perché sta dietro le mura, dietro le sbarre. E l'augurio, siccome è il 31 mattina e quindi è il giorno in cui cambia l'anno, tutti fanno qualcosa, chi più chi meno, a seconda delle possibilità economiche eccetera, però chiaramente ci sono alcune persone che non possono festeggiare l'anno nuovo perché stanno in carcere. Ovviamente non sono i soli, anche quelli che stanno in ospedale, insomma, però comunque chi in carcere non hanno impedimenti fisici, ma non possono fare niente. Mi ricordo quando stavo dentro, sentivi, rimanevi sveglio a mezzanotte, anche perché finita la cena, in genere alle 10 al massimo ti davano la cena collettiva, cioè poter ospitare qualcuno in cielo, ma fino alle 9, ma al massimo alle 10 poi finito tutto, e quindi si rimaneva svegli per vedere, per sentire più che altro, non è che si dà gli scoppi della i botti di Capodanno, tanto per sentire. Quindi buon anno veramente. Il tempo non è il tempo meteorologico, il tempo sociale e politico non è molto bello, e quindi il carcere, come il lavoro, come la disoccupazione, ce ne soffre tanto, forse più degli altri aspetti, perché nel carcere c'è difficoltà anche di organizzarsi e protestare. È tutto vietato lì, anche fare un'assemblea, incontrarsi, sapete, no? Poi queste vessazioni che abbiamo visto continuano a riprodursi, no? Una è quella di cui si parlerà il 31 davanti a Re Bibbia, cioè il fatto che anche ai detenuti cosiddetti particolarmente, che vanno particolarmente sorvegliati, quelli che stanno in 41 bis, come una volta era quelli che stavano in articolo 90, sarebbero dei detenuti che, ritenuti particolarmente pericolosi, vanno tenuti un po' in reparti carcerari con totale chiusura verso l'esterno, quindi posta controllata, pacchi inesistenti, i colloqui ogni mese e soltanto con i parenti stretti e con i vetri divisori, quindi anche il parlare viene non solo, quello un po' dappertutto, è possibile che venga diciamo registrato, ma anche impedito, cioè nemmeno l'alito può passare perché c'è il vetro divisorio. E oggi appunto stanno in 41, sono tanti, sono quasi, arrivano quasi alle 800, quindi si avvicina a un numero spaventoso, e non sono tutti boss mafiosi, anche perché se i boss mafiosi fossero 800-900 è chiaro che forse dovremmo rivedere alcune cose. No, non sono, sono persone ritenute in qualche modo legate o alla criminalità organizzata oppure al cosiddetto terrorismo, che è un'accezione, le due sono accezioni molto vaghe, molto generiche. Chiaro, uno pensa subito, quando dici questo, pensi a Torino, per dire, no? Cioè al capo della mafia e al al più grosso terrorista della storia, non so chi potrebbe essere adesso. E in realtà, visti i numeri, che sono tantissimi, ci sono appunto persone che hanno fatto, a volte anche hanno soltanto rubato una macchina, che è un reato minimo, piccolo, e che questa macchina poi è stata utilizzata, perché uno ruba una macchina, poi la dà a quello che ti ha ordinato di rubare una macchina, e non è che gli chiedi l'identikit, chi è, che cosa fa, insomma, se no, viene usata per esempio per un'attività, diciamo, fatta dalla criminalità organizzata. Quello che ha rubato la macchina viene bollato come fiancheggiatore, come dell'organizzazione criminale, quindi lo mettono in 41 bis. Perché questo? Non perché pensano che sia pericoloso, non sono così stupidi, vogliono fare i furbetti, come i furbetti del tesserino là, vogliono praticamente spaventare, soprattutto il 41 bis, o comunque queste forme devastanti tendono, sono rivolte non tanto contro il grosso boss mafioso, che insomma, vabbè, se è grosso il boss probabilmente rimane lì tutta la vita e muore in carcere, invece vogliono spaventare i piccoli pesci, diciamo così, no? Oppure addirittura chi non c'entra niente, e convincerli di parlare, di fare la spia, come si dice normalmente. C'è questo termine molto corretto, è corretto perché è il termine popolare che si usa a Roma e non solo a Roma. Far la spia, fare la delazione, si dice far la spia, è dovuto, questo termine è dovuto all'osservazione protratta nel tempo per secoli, in cui la gente del popolo romano, per esempio, ha visto che questo meccanismo, no? Se tu fai la spia e mandi un altro in carcere o ai ceppi, dove sia, al posto tuo, è chiaro che vieni in qualche modo graziato. A Roma è nato questo termine, far la spia, poi ed è reale, cioè rappresenta l'immagine reale di che cosa chiedono a chi sta in 41 bis, di fare la spia. Perché, e poi però questa cosa si chiama delazione, poi è cambiata addirittura collaborazione di giustizia, tra un po' la chiameranno santificazione. Ora possono giocare come vogliono con le parole, ovviamente controllano la stampa, la televisione, e quindi possono fare, però noi sappiamo che far la spia è far la spia, appunto, a capo, perché così è stato nei secoli. Tra l'altro, perché è nata a Roma questa parola? Perché a Roma c'era, prima dell'unità d'Italia, c'era appunto lo Stato Vaticano, che comandava anche territorialmente, anche politicamente, economicamente, quest'area più o meno dell'Italia centrale, e questo controllo, questo potere usava molto la tortura, come durante l'Inquisizione, ma non solo, anche per i reati normali usava la gogna, cioè ti mettevano a Piazza del Popolo, per esempio, in questa gogna dove venivi esposto al pubblico ludibrio, la gente passava, ti sputava in faccia, ti schiaffeggiava, perché appunto c'era scritto sopra a questa gogna di legno che tu avevi fatto, eri probabilmente anche indiziati, erano persone indiziate, non quindi nemmeno condannate. Evidentemente il Vaticano e la Chiesa in generale difetta un po' di garantismo, tutte le religioni difettano di garantismo, questo ve lo posso assicurare, quindi, per cui quelli che ritengono di essere fedeli dovrebbero essere innanzitutto fedeli a se stessi o a se stesse, ossia evitare che qualche potere più o meno psicologico, ancestrale, che volete, insomma, ti imponga di essere, di fare la spianca a te stesso, cioè di insultare te stesso. Vabbè, chiudiamola qui. No, chiudiamola qui, non la chiudiamo, perché invece è importante questa battaglia. Questa battaglia significa che, appunto, per ora tra le tante vessazioni di queste persone che stanno in 31 bis, tese a fargli fare la spia, sia chiaro questo il concetto, e sono appunto continue stazioni per rendere più duro, per facilitare questo far la spia, per rendere più possibile finché la gente non ce la fa più e quindi fa la spia. E allora ultimamente hanno, tra le tante vessazioni, hanno impedito anche di ricevere i libri dall'esterno e perfino di prenderli dalla biblioteca del carcere. Sapete, ogni carcere, grazie alle battaglie fatte nei decenni passati, ha una biblioteca. Le lotte dure sono state per ottenere il biblioteca in carcere, non era facile, perché questi signori non vogliono che il detenuto, al di là di quello che dicono, lasciate stare, le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra. Questo non lo dico io, perché lo dice tutto il sapere di questi 3.000-4.000 anni di storia della realtà umana organizzata, più o meno. Non volevano le biblioteche, però con le lotte, rivolte degli anni 70 e 80, insomma, si sono ottenute le biblioteche. Queste biblioteche sono state, loro non possono utilizzare questi libri, che stanno in carcere, quindi super controllati. Allora questa cosa è andata anche alla Corte di Cassazione, diciamo divieto. Ovviamente la Cassazione sta dentro questo quadro, quindi ha convalidato il divieto di libri, e vabbè, va malissimo anzi, e quindi uno degli obiettivi, e anche ci sono tante iniziative in corso nel paese, non tantissime come si vorrebbero, poche diciamo, però qualche iniziativa c'è, per dove si mandano i libri, si spediscono i libri reparti dove ci stanno detenuti o detenute in 41 bis e si spediscono libri che ovviamente non gli danno, però questo fa vedere al direttore del carcere che c'è una solidarietà esterna e quindi mette in moto qualcosa. Allora, lo stesso il 31 parleremo di questa vicenda. A proposito delle biblioteche, appunto, stiamo ai libri, le biblioteche, ne abbiamo parlato la volta scorsa, se qualcuno ci ha ascoltato, il fatto che a seguito della evasione di tre uomini dal carcere maschile di Rebibbia, hanno fatto una perquisizione notturna di quelle tremende che fanno in queste occasioni. È una sorta, non per cercare qualcosa, che cerchi dopo l'evasione non c'è, non puoi, casomai cerchi fuori gli evasi. È stata molto violenta perché, nel senso che un po' da fuori non sono più abituati alle notizie dal carcere, quindi questa cosa si era persa la conoscenza di questa ritorsioni nei confronti di carcerati che fanno qualcosa contraria all'ordine detentivo e quindi hanno fatto una perquisizione notturna, non le guardie del carcere ma ministeriale, cioè il ministero ha ordinato una perquisizione notturna con le guardie che venivano da fuori, quindi che possono fare, tanto non vengono riconosciute dai detenuti e quindi non potranno avere nemmeno delle, come dire, delle ripercussioni, denunce o altre cose. E hanno sfasciato le celle, vabbè, come fanno sempre, però in più hanno sfasciato anche la biblioteca di Rebibbia, una bella, bella biblioteca, biblioteca Papillon, frutto anche questa di lotte e lavoro dei detenuti per tantissimi anni. È molto grande, è una delle più grandi nelle carceri italiane. Bene, male, hanno buttato i libri per terra proprio con un disprezzo nei confronti della cultura, comunque del libro, quando questo va alla persona detenuta. Questo la dice tutta di quanto sia falso e mistificante quella cosa che è scritta perfino nella Costituzione, che troppe persone saltano, e questo è sbagliato, ma non perché c'ha dentro la Costituzione italiana vigente, quella troppo difesa, in realtà c'ha dentro le cose bruttissime, per esempio questa falsificazione che dice che il carcere serve a rieducare e reinserire il detenuto. Non è vero, ma non è mai stato vero nella storia italiana. Il carcere nel dopoguerra, quando è stata scritta questa bella Costituzione, bella tra virgolette, tante virgolette, il carcere ereditato dalla Repubblica Italiana Democratica era quello fascista, esattamente inalterato, senza cambiare manco una virgola. Questo l'hanno denunciato i partigiani che erano stati in quei carceri e che poi sono andati a finire, perché erano dirigenti di quelle formazioni partigiane importanti, sono andati a finire nell'Assemblea Costituente. L'hanno detto e per quello hanno scritto quella roba, non tanto perché credessero nessuno di quelle persone che hanno scritto la Costituzione italiana. Prima di difendere una cosa, questo parentesi, scusate cari amici e fratelli e compagni come volete, prima di difendere una cosa studiate com'è nata e che cosa c'è scritto dentro o che c'è scritto e qual è stato il dibattito che l'ha prodotta. Informatevi, studiate, altrimenti siamo deserto calpestabile da tutti gli scarponi possibili e immaginabili. Dunque, la Costituzione aveva, rispetto per tanti aspetti, ha delle grosse contraddizioni interne, molto grosse, e sul carcere ne ha tremende. La gran parte la prima nasce da questo fatto: la gran parte delle persone che erano state elette all'Assemblea Costituente, cioè quindi col precipuo compito di disegnare la Costituzione, erano persone in gran parte che provenivano dalle carceri fasciste, oppure erano dalla Resistenza, però molti avevano passato o prima o dopo il carcere fascista, quindi sapevano cosa è il carcere. Non poteva, il quadro generale politico di equilibri internazionali mondiali non gli permetteva di provare un percorso abolizionista senza carcere e nemmeno un percorso riduzionista. La situazione italiana era devastante, si sapevano che nel dopoguerra sarebbero attraversati anni tremendi, soprattutto per le classi subalterne di popolazione, lavoro a nero, precarizzazione, fame, da altre parti la borsa nera, tutti gli impicci, cioè, più o meno stiamo tornando, ma con molto più pesante, perché qui perlomeno diciamo, c'è comunque un minimo di benessere che sostiene anche questi 40% di disoccupati giovanili. E allora non c'era niente di tutto questo, e allora sapevano che questa difficoltà di vita, ci sarebbe stato parecchio tempo per l'economia di questo paese di risollevarsi, sarebbero state momenti, anni, giorni e decenni di scontri di a tutti i livelli, e quindi non se la sono sentita di fare di togliere un po' di carcere di mezzo, non se la sono sentita. Poi non solo, ma il problema è che i poteri forti economici, che erano forti ed economici durante il fascismo, erano gli stessi. Non era stato fatto un cambio del potere reale, quello economico, le grandi finanziarie, le grandi banche, le grandi imprenditorie erano esattamente gli stessi. Qualcuno era passato la staffetta al figlio come gli Agnelli, ma quelli erano, non era cambiato niente. Non solo, la magistratura non era cambiata, i prefetti non erano cambiati, i questori non erano cambiati, i direttori dei carceri non erano cambiati, i criminologi che stavano al Ministero di Giustizia non erano cambiati, quindi tutta l'impalcatura, non solo per questo problema del carcere, ma adesso stiamo discutendo di questo, tutta l'impalcatura fascista, del periodo fascista, che riguardava la struttura del carcere, è passata, è stata traghettata in maniera inalterata. Ricordate questa parola, inalterata. Quindi quando si parla di democrazia, eccetera, bisogna ricordare che c'è un passaggio inalterato dal fascismo alla democrazia. Sul terreno del carcere, su questo non c'è dubbio alcuno. È così, cioè è come che la terra non è quadrata, la terra, ecco, e chi, ve lo posso dimostrare a chiunque, anche a professoroni che vogliano, in pochissimi minuti. Allora, il problema è che questi costituenti dovevano mantenere il carcere, questo, tutti i poteri, tutti gli equilibri, la NAD, c'era, dopo gli Yalta avevano già deciso dove doveva stare l'Italia, i potenti della terra, quelli che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. E quindi c'era poco da in quella parte dove era stato deciso dovesse stare l'Italia, non era possibile fare delle modifiche su questo terreno della sicurezza, del controllo territoriale, eccetera. Quindi il carcere doveva rimanere. Ma poiché questi lo conoscevano, che cos'era quella fedenzia del carcere, perché l'avevano vissuto, hanno detto: togliamogli l'aspetto brutale, cioè diciamo il carcere non può, c'è quell'articolo che dice però esattamente, è chiaro che è stato scritto da chi il carcere l'ha vissuto, e chi non l'ha vissuto non l'ha capito, ma continua a non capire nonostante siano passati 60 anni, né i giovani né i vecchi, nessuno capisce che vuol dire quell'articolo che è stato scritto e che è una contraddizione pesantissima dentro la Costituzione. E quindi non si fanno le battaglie per difendere la Costituzione. Si dice quello che volevano i costituenti era questo, era criticare il carcere, smembrarlo, ridurlo lentamente. Quando si dice che non deve avere i trattamenti disumani o degradanti, ma deve volgere alla rieducazione e al reinserimento, significa che il carcere deve essere lentamente abolito. Quello hanno voluto dire. Ma questa cosa non l'ha capita nessuno, e ancora oggi le giovani generazioni fanno finta di non capirla, oppure non la capiscono, questo non lo so, ce lo dovranno dir loro. E quindi, perché altrimenti non avrebbero difeso questa Costituzione, avrebbero difeso, casomai, se uno vuole, l'orientamento dei costituenti, che è ben altra cosa, signori miei. Non cadete così sulle bucce di banane, che poi ci si fa male. Infatti le sbucciature di ginocchia ne ho viste parecchie in giro. Va bene, chiuso questa regione. No, non è chiuso, deve rimanere, perché il problema è che appunto carcere continua a mantenere invece quella cosa, il carcere materiale, come la Costituzione materiale, è ben altra cosa da quello che volevano mettere in atto i costituenti, l'Assemblea Costituente, i e le costituenti. ben altro, perlomeno la grossa parte dei costituenti che era stata nel carcere fascista e che aveva fatto quella lotteria estesa voleva tutt'altra cosa, non l'ha potuta scrivere perché gli equilibri internazionali in cui l'Italia era collocata non glielo permettevano, i rapporti di forza, non glielo, i rapporti economici non glielo permettevano, e quindi di fatti pochi mesi dopo, alcuni mesi dopo, un anno e qualche mese dopo, più di metà dell'Assemblea Costituente viene buttata fuori dagli organismi governativi e viene fatta una sorta di golpe, e quindi la Costituzione non è da difendere. È da difendere il dibattito, e se qualcuno ha tempo e tempo si dovrebbe trovare invece di andare in giro a fare le spese, a farle compere, e non serve a niente alimentare questo meccanismo delle merci, andare a leggere il dibattito dell'Assemblea Costituente, cioè è scritto, si trova, non credo ci sia su internet, non lo so, comunque è facile trovarlo e leggerlo, non è difficile, però almeno capite quali erano gli intendimenti. E non si difende una Costituzione scritta, si difende il volere dei costituenti, se si vuole difendere qualcosa. Quindi, a parte le cadute di stile, di politica, di capacità, di intelligenza, noi andiamo avanti. Allora, eravamo partiti da libri e dalle biblioteche, che in cui ci sta questo discorso. Dopo, per diciamo far capire ai detenuti, a tutti i detenuti, pensate, per tre persone sono fuggite, si è punito un carcere di 1600 persone. Questo sistema, se non è sistema fascista questo, il nazismo, per ogni tedesco dell'esercito che veniva colpito uccideva 10 civili, 1 a 10, questo è più di 1 a 10, 3 sono scappati, vengono puniti 1600 persone, quindi come vedete stiamo là. Bene, su questo terreno stiamo là, poi è chiaro che è più ricca, più benestante la società, eccetera. Oh, il problema è che non si sono fermati qua. Hanno messo sotto inchiesta, è quella notizia di oggi, perché è uscita ieri sui giornali, che hanno messo sotto inchiesta tutta la parte dirigente del carcere di Re Bibbia, il direttore, il capo reparto del reparto da dove questi sono scappati, alcune agenti che erano di servizio quella notte quando questi sono scappati, un sacco di gente, perfino il responsabile del dicastero del Ministero di Giustizia che si occupa dei detenuti. Ora, e perché questa cosa? Un po' perché l'accanimento, appunto, anche qui il carcere, il sistema forcaiolo, giustizialista, chiamatelo come volete, quello che tende a dire puniamo, puniamo, puniamo, sta prendendo piede, perché non c'ha contrasti, nessuna forza politica è garantista, nessuna, questo, non, nessuna proprio, nessuna di quelle che siano al Parlamento, non ce n'è nessuna, di quelle fuori dal Parlamento non ce n'è quasi nessuna, quindi è chiaro, il movimento che non è del tutto garantista, però quel poco che è garantista, comunque, che è antipunitivo, si dà da fare, ma molto relativamente, e quindi fanno queste ritorsioni. Perché l'hanno fatta? Però attenzione, qui già fare questo ragionamento, un periodo quando le evasioni erano alcune centinaia l'anno, quindi praticamente ogni settimana c'erano due o tre evasioni, non è che facevano queste cose tremende, sì, la punizione per carcere la facevano, la perquisizione a notte butta tutta all'aria, te la facevano, perché come no, tu colpisci, io ti rispondo, questa è la logica del carcere, però non succedeva, cioè non mettevano sotto inchiesta tutto il carcere, perché erano talmente frequenti le evasioni che non potevano farlo, e al limite soltanto la guardia che era il secondino, che era di guardia in quel giorno, in quel reparto, da dove erano, cioè, al limite, mi facevano soltanto un rimbrotto e finiva lì. Invece qui hanno fatto la cosa in grande stile. Ora, e quindi, come diciamo, il problema dei libri comincia a essere centrale. E poi, capite, in una situazione in cui tutti i politici, i parlamentari, quando vanno a visitare il carcere, questo periodo di Natale c'è proprio visite al carcere in continuazione, tutti vanno a visitare il carcere, prelati, non prelati, grandi prelati, ma anche politici, sottopolitici, a qualunque livello, da quello del municipio a quello dello Stato, e tutti quanti vanno a visitare il carcere, però non fanno finta di non sapere questi problemi qua, che invece tanto non vi si tolgono i libri, non fanno manco leggere i libri, agli altri gli sbuttano l'aria delle biblioteche che si sono costruiti con tanto fatica. Poiché si parla di questa evasione come se fosse successa di Radio 3, persone sono scappate, una volta ne scappavano tre persone nell'anno, dice sempre il ministero, ne scappano 12 o 15 negli ultimi anni, da 12 a 16. Prima erano 3, 4, 500 l'anno, vedete la differenza. O poi ci spiega qualche giornale, per esempio qui c'è sul Corriere della Sera ieri, però lo trovate ieri, Giovanni Bianconi ci spiega pure tutto il meccanismo, come sono scappati eccetera, un sistema normale vecchissimo, e che questo vuol dire, è un'altra considerazione va fatta, che non è perché la gente non scappa più, diciamo i numeri, alcune centinaia adesso nemmeno, non arrivano a due decine, perché? È più difficile scappare? No, perché quando uno si ingegna lo fa, non è stato col solito sistema dei lenzuoli annodati. Ci sono super sorveglianza, tutte cavolate, queste si dicono il super elettronico, non è vero, non c'è. In carcere non c'è, c'era già prima il sistema elettronico che controllava se uno l'attraversava, no? Con dei raggi, e anche il muoversi di ombre. E quindi c'era adesso, non è cambiato niente. Non cambia perché non c'è l'emergenza, non c'è il problema, la gente non fugge, quindi perché spendere soldi nel migliorare il controllo esterno se la gente non scappa? Quindi è chiaro, non si pone. E quindi non è difficile. Ma allora uno si domanda perché prima scappavano tanti e ora no? E il motivo è uno solo, perché non sentono all'esterno il sostegno, la solidarietà. Perché quando esci dal carcere è pure possibile, chi ci prova lo dico, è possibile scavalcare il muro e trovarsi, arrivare per strada. E poi se non c'hai qualcuno che t'ospita nel giro di una mezz'oretta massimo, è chiaro che poi ti riprendono, perché scatta l'allarme, girano le volanti e ti trovano se rimani per strada. Quindi devi andare in una casa, ci vuole qualcuno che ti accoglie. E che ti fa stare lì qualche giorno e poi dopo casomai ti ripulisci tutto, e poi quando si calmano anche i controlli te ne rivai, perché dove devi andare ci vogliono alcuni soldi, perché è chiaro che questa cosa manca, tutto questo manca, siamo noi che manchiamo, non sono i detenuti che si sono rimbambiti, loro non scappano perché sanno di non avere conforto, sostegno, solidarietà dall'esterno. Per chiuderla questa cosa delle evasioni, visto che appunto si parla così in importanti evasioni, il sindacato Sappe, che intanto spara di quelle che cialtronerie, purtroppo i giornali danno molto spazio al sindacato di polizia Sappe, uno dei più grossi, perché così, chissà perché, conoscono qualche giornalista probabilmente, gli danno qualche dritta, qualche notizia, e quindi hanno accoglienza nei giornali. Bene, questo del uomo del SAP dice: abbiamo sventato noi poliziotti penitenziari, noi secondini, abbiamo sventato un'evasione dal carcere di un detenuto libico, come per dire, vedete, questo sicuramente essendo libico era in possibilità di diventare un terrorista, perché i libici quello diventano così, ormai andiamo per blocchi, no? 19 anni, l'abbiamo bloccata, abbiamo sventato l'evasione di un detenuto straniero, un libico, queste parole, già queste, 19enne, arrestato lo scorso 24 novembre, quindi l'altro ieri, a Vibo Marina durante uno dei tanti sbarchi di migranti, ecco fatto, quindi pure c'era un migrante che voleva scappare, questi hanno salvato l'Italia e l'Occidente, sta bloccando la sua evasione. Allora, 15:37 torniamo in voce e c'è una vicenda che fa un po' ridere. È successo, sta sulla stampa di ieri. Allora, la stampa di ieri dice un trafiletto all'ingresso Torino, il titolo è Torino, due punti, visitò il carcere con due notab, chiesti 10 mesi per l'ex eurodeputato Gianni Vattimo. Questa è la stampa di ieri. Questo è l'articoletto. All'ingresso disse che erano due consulenti per i movimenti sociali. La condanna a 10 mesi di reclusione per un reato di falso è stata chiesta oggi a Torino per il filosofo Gianni Vattimo, processato in tribunale per una questione legata al movimento. Nel 2013, quando era parlamentare europeo, Vattimo visitò il carcere delle Vallette, facendosi accompagnare da due attivisti della Val di Susa, che è il movimento Notav praticamente, no? E che intendevano incontrare due loro compagni arrestati arresti. All'ingresso presentò entrambi come consulenti per i movimenti sociali, cosa che secondo il PM Antonio Rinaudo non corrispondeva al vero. Sempre il PM Antonio Rinaudo ha chiesto anche ai due accompagnatori, che erano una Nicoletta Dosio 9 mesi e l'altro Luca Abba 7 mesi. Ora, le parole hanno un senso e non so perché il PM di Torino, questo signor Rinaudo, non abbia un piacere di sapere che una parola corrisponda a qualcosa. Ora, qual è il falso? Visto che Gianni Vattimo ha detto sono due consulenti per i movimenti sociali, e il movimento Notav non è un movimento sociale, o forse per il PM Antonio Rinaudo è un covo di terroristi? Ma è un movimento sociale, perché la gran parte della popolazione di Val di Susa vi partecipa, così sappiamo tutti, no? Non è che e quindi è un movimento sociale, e come lo volete chiamare? Ha detto due consulenti del movimento sociale. Chi sono i consulenti dei movimenti sociali? Gli attivisti dei stessi movimenti sociali. Quindi non si capisce dove sta il falso. Quindi è possibile che ha detto il vero. Se l'avesse spacciati come due studiosi di qualcosa, poteva essere due consulenti per i movimenti sociali, ossia realmente. Invece è falso, ha detto, e le condannate tutte e tre. E questa è la Procura di Torino, che potrebbe andare a fare, ma ce l'hanno a morte con, vabbè, sono stati messi, per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, ma che credo che tutti e tutte potete immaginare, sono ferocemente, la procura di Torino ferocemente con il movimento Notav da quando è sorto, circa 20 anni fa, no? Grazie alle loro inchieste, al loro sbattere in gara tutti, diciamo, sono, vogliamo dire, responsabili della morte di Sole Baleno, perché insomma è così che è successo. Comunque si sono suicidati questi due ragazzi, perché non aveva nessun senso essere buttati in carcere, eppure sono stati buttati lì. Comunque, questo è il dato. Oh, poi c'è un fatto importante anche qui, perché ci permette di riflettere. I fatti non vanno raccontati perché non dicono niente, intanto perché li prendiamo dai giornali, non c'è una voce diretta dal carcere, quelle poche che ci stanno le prendiamo, ma la maggior parte delle notizie del carcere le prendiamo dai giornali locali, quelli che appunto essendo locali parlano di quello che succede nel carceretto vicino a loro, perché qualcuno la leggerà quella notizia, e quindi però c'è da dare tener conto di quanto ci mette il giornalista, che non conosce sicuramente niente del carcere, a metterla, o il direttore del giornale a fargliela scrivere, insomma. Quindi, però prendiamo quindi tutto con le pinze, e ci permette di ragionare. Non è che la notizia la passiamo perché venga presa come tale, questo è sbagliato completamente. È il mestiere del giornalista, che è colui o colei chi fa il giornalismo, che rimbambisce la gente, c'ha questo per compito, a volte gli riesce, a volte no, purtroppo un po' riesce quest'ultimo periodo. Comunque, il problema è successo a Trento, nel carcere di Trento. Si è suicidato un ragazzo, fatto purtroppo abbastanza consueto in tutte le carceri italiane, il numero dei suicidi è ancora molto molto alto. Bene, sull'Adige, giornale lì di Trento, la notizia è questa: si è suicidato in carcere un 35enne della Valla Garina, arrestato martedì scorso. Questo è del 18, di qualche tempo fa. Leggiamo tre articoli di giornali comparsi tutti su questa notizia. Allora, dal 18 compare questo articolo sull'Adige di Trento, che dice: si è suicidato in carcere questo ragazzo Luca, 35 anni, della Valla Garina, arrestato martedì scorso con l'accusa di aver dato fuoco a un distributore di benzina macchina dell'Agip, era vuoto, non c'era nessuno, era la notte, no? E quindi alle 2:30 di notte questo ragazzo Luca si è suicidato nel cuore della notte mentre il suo compagno di cella, un giovane italiano, dormiva. Tutto è accaduto rapidamente, secondo quanto si è appreso, senza che l'altro detenuto si fosse svegliato. Il giorno dopo, il 19, su un altro giornaletto della provincia di Trento, il Dolomiti, che è un giornaletto che trovate anche .it, quindi online, Trento, scoppia un po' il problema su questo, perché si viene a sapere che questo ragazzo aveva dei grossi problemi e non doveva stare in carcere, o comunque c'era stata tutta un'avvertenza, e qui ce lo racconta. Trento, idoneo ad essere rinchiuso, ma dopo 4 giorni in carcere si è suicidato. L'avvocata di questo ragazzo, Luca, dice: era alienato, non diceva una parola. La decisione del giudice, sulla base di una valutazione psicologica, l'esperto dice: arretratezza del sistema giudiziario e carcerario, forse non doveva finire dietro le sbarre, Luca, ma qualcuno ha deciso così, in carcere in attesa di giudizio, un'attesa che il ragazzo non poteva sopportare, si è impiccato nell'infermeria della casa circondariale di Spini 3 giorni fa. Aveva 35 anni, aveva incendiato un distributore di benzina a Rovereto, i carabinieri l'hanno fermato subito, da quel momento non ha detto una parola, né agli inquirenti, chi l'ha arrestato, poliziotti, inquirenti eccetera, e nemmeno al suo avvocato. Questa cosa ha fatto scattare una... ovvio, no? Forse ha qualche problema, hanno chiesto questo ragazzo, forse non è che ha voluto bruciare qualcosa come dolo per avere qualche beneficio, perché forse c'è qualche problema, vediamo che cosa. Allora l'avvocato ha chiesto un parere di uno psichiatra, uno psicologo, per vedere se diciamo, stante il suo stato, stava lì attonito, non diceva una parola, né sì né no, niente, da quando era stato arrestato. Probabilmente c'è qualche problema che può dire che non è opportuno metterlo in carcere, ma casomai metterlo in una casa di cura, qualche posto dove può essere un po' visto che problemi c'ha. In realtà ha chiesto l'avvocata, appunto, se potesse essere collocato in una casa di cura in attesa che qualcuno dicesse, un medico dicesse che c'aveva questo ragazzo, dargli una mano e poi dopo, casomai dopo, mandarlo in carcere. Invece non hanno avuto sentir niente, dice è pericoloso, può essere recidivo, brucia tutti i distributori, che poi che senso ha? Vabbè, insomma, e l'hanno messo in carcere, 4 giorni dopo si è suicidato. Il 20, giorno dopo ancora, sul Corriere del Trentino, altro giornale di quell'area, altro dibattito, il problema è grosso, perché qualcuno ha detto, uno psichiatra poi l'ha detto, no? Ha detto no, una persona così non doveva essere messa in carcere perché non ha la possibilità di relazionarsi, di capire che cosa gli sta succedendo. Comunque sul Corriere del Trentino del 20 dicembre, quindi di ieri, si parla a questo giornalista del Corriere del Trentino, affronta il problema della sanità in carcere, e quindi inizia così: merita una amara riflessione il grave fatto del suicidio del 35enne Luca, avvenuto l'altro giorno nel carcere Spini Gardolo, giuste le osservazioni del sindacato autonomo delle guardie carcerarie sulla carenza di organico, ma quindi sempre a dire si è suicidato perché non siamo tanti, ma non è che uno si suicida, perché se ci fossero tante guardie non è che risolverebbe i problemi. Loro ogni suicidio, ogni cosa che succede dicono non siamo, abbiamo carenza di organico. Ricordo sempre, tra parentesi, lo dico sempre, che nelle carceri italiane, perlomeno il numero degli agenti di polizia penitenziaria, si chiamano così i secondini, sono 42-43 mila, la popolazione carceraria è 54 mila, quasi 1 a 1. Nel resto delle carceri europee è 1 a 3, cioè una guardia per ogni 3 detenuti, 1 a 3 o 1 a 4. Non si capisce perché sono tanti, eppure dicono che nei reparti sono, probabilmente stanno facendo altre attività che non dovrebbero fare, che sono gli autisti, le guardie del corpo, però questo è un problema che si dovranno vedere loro con i loro dirigenti. Vabbè, quindi dice, a parte, vabbè, va bene, le guardie carcerarie dicono che loro sono canzoni, ma è il problema, dice questo giornalista, che di discutere dell'opportunità che anche nelle carceri trentine ci sia, venga la figura del garante dei carcerati, dei detenuti, in modo che possa almeno affrontare questi problemi che lì manca, ma in molte parti d'Italia manca il garante dei detenuti. Questo ragazzo Luca non era affatto sconosciuto ai servizi, questo è il problema, no? Non è che diceva nessuno, non sapevamo che era, forse dice sta provando, no, dice non era sconosciuto ai servizi sociali della Valla Garina, di quella zona dove abitava, non era sconosciuto perché spesso soffriva, manifestava improvvisi mal di testa fortissimi, dava in escandescenza di colpo improvvisamente, insomma era non regolare nel comportamento, aveva scatti improvvisi di rabbia, si metteva a urlare, strillava, a notte si svegliava, cioè, non aveva un ritmo di vita tranquillo. E quindi dice questo giornalista del Corriere del Trentino, sentendo, dice questo qui quindi non doveva, possibile che tutta questa certificazione, carteggio, la cartella clinica precedente all'arresto di questo ragazzo non è arrivata in carcere insieme a lui e con quelle, in quelle condizioni che altri medici avevano riscontrato, perché l'avevano controllato questo ragazzo quando stava in libertà, non doveva andare in carcere non ci può andare in quelle condizioni, perché appunto, può succedere che ti suicidi o fai qualche altra qualcosa e quindi è scoppiato il problema. Adesso vabbè, non sappiamo niente, no, questo è importante perché quest'ultimo articolo affronta un po' il tema della sanità in carcere, che non solo non funziona ma è proprio devastante, non funziona, non ci sono, i medici sono quasi sempre assenti nelle carceri, perché i medici vengono pagati, vengono dalla ASL, no? Dalla sanità pubblica, e vengono pagati e un tanto all'ora. In questo reparto un medico viene 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, viene pagato per quel e siccome i soldi in carcere per queste cose, vitto, sanità, tempo, se si va per dire tempo libero in carcere non c'è, però insomma per queste cose non c'è manco i soldi per comprare un pallone di gomma da 2 calci al pallone, non c'è manco i soldi per comprare le palline di ping pong nei carceri dove c'è il tavolo di ping pong, pensate come stanno essi. Va bene, questo è il problema. Intanto noi ci facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo. Allora, 15:51, quasi 52, andiamo avanti con le notizie. Ancora questa è sempre la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, un discorso un po' più ampio, che però contiene quello del carcere. E qual è? È una ricerca fatta da una di questi istituti di ricerca molto importanti, internazionali, la Community Media Research, insomma, vabbè, comunque ha fatto sul per sapere se aumenta o diminuisce il divario ricchi poveri, per capirlo, e qual è la percezione degli italiani su questo fatto. Intanto allora, la percezione sulla situazione economica e su quella politica dice che peggiora. Le aspettative che hanno le persone ovviamente intervistate, che però secondo questi centri statistici sono appunto dovrebbero essere un campione che rappresenta un po', poi non è vero, però insomma rappresentano uno spaccato un po' della realtà. Se è fatto bene il campione dovrebbe rappresentare un po' gran parte del pensiero della popolazione. Dunque, peggiora la percezione della situazione politica e economica d'Italia. Per il 2017 sono poche le aspettative tra i pensionati, tra i ceti medi e tra i marginali, quindi un po' tutti. Non vedono, sono pessimisti rispetto al futuro, la gran parte, più del 40%. L'analisi che hanno fatto questi, hanno domandato dal 2008, quando è cominciato, ci sono stati 5 governi: Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e adesso Gentiloni, e quindi tanti, no? Quindi con tutte le varie le sfumature, colori, impicci, imbrogli, eccetera. Eppure a una domanda specifica, se hanno visto differenze le persone intervistate tra questi governi rispetto alla condizione della persona intervistata, dicono no, e nemmeno al quadro generale complessivo. Questo dicono le persone intervistate. Poi ci stanno dati questi un po' più precisi, perché vengono dal... Allora, il 44,6%, quasi la metà, non ha percepito cambiamenti sostanziali della propria condizione. Sostanziali, quindi, no? Mentre un'altra metà, il 42%, denuncia un peggioramento. Quindi il 44,6% non ha visto miglioramenti, cioè stabile, mentre il 42% hanno visto addirittura un peggioramento. Soltanto il 10% ha visto un miglioramento, il 12%, scusate. Questo la dice un po' tutta sul quadro, e anche su una certa capacità percettiva perlomeno di questo campione. Quindi non è che non sanno la realtà, quindi qui c'erano tutti, le persone marginali, il ceto medio, inteso chiunque ha un lavoro, viene inteso coloro che hanno un lavoro stabile, insomma, no? Anche se anche di carattere operaio, e poi commerciali, insomma, abbastanza strati, e questi non hanno visto un cambiamento positivo, la metà, addirittura la metà ha visto un peggioramento, l'altra metà non un miglioramento. Ora, visto che l'ideologia dominante in queste società, la nostra ma anche tutte le altre, diciamo, quindi ormai di tutto il mondo, pensa che l'economia capitalistica, quella che domina in questi paesi, che è il modo di produzione, come scambiamo le merci, no? Quel sistema lì, si producono e si scambiano le merci secondo quei criteri, quelle regole che sono proprie del sistema capitalistico. Ebbene, questa l'ideologia che sostiene quel sistema economico lì dice che la gente va verso un miglioramento, quindi i figli staranno meglio dei genitori, i nipoti meglio ancora e così via. E questa cosa invece si è arenata a partire più o meno dal cambio del millennio, qualcosa prima, qualcosa dopo, dagli anni 90, dagli anni 2000. E inoltre molto aumentato il ventaglio reddituale, di reddito, non solo quello retributivo, sì, quello ci stanno i dati dicono che il monte dei salari, per esempio degli stipendi delle persone medio-basse, l'insieme è molto più basso degli anni precedenti. Un po' perché sono meno quelli che lavorano, quindi un po' perché molti lavorano in nero, quindi non è risultato, ma sono diminuite. Mentre invece il monte dei profitti di quelli che appunto danno i dividendi delle azioni delle grandi imprese o delle grandi banche sono aumentate, quindi il monte dei salari è notevolmente diminuito rispetto al monte dei profitti, e questo sta tutto dentro la dinamica conflittuale che caratterizza queste due società. Quando è bassa la conflittualità, come in questa fase che viviamo, molto bassa, in qualche caso proprio assente, è chiaro che il monte dei profitti cresce e il monte dei salari diminuisce, perché non è che si sta, è come una partita sempre in corso, se tu smetti di giocare è chiaro che la squadra avversaria viene avanti e ti insedia l'area di rigore e poi ti fa pure il gol, è ovvio, no? E quindi è così. Qualcuno diceva, anche un libro uscito di recente, la lotta di classe è sempre in corso, o la fanno le classi subalterne per migliorare la propria condizione, oppure la fanno i grandi imprenditori, i grandi banchieri per schiacciarti ancora di più. Questo è il dato di fatto. Quello che cosa ha da tende la gente in qualche modo, però ancora hanno molto attenti alla sicurezza personale, 56,8%, molto attenti al reddito, 53,7%, e alla lotta all'evasione fiscale, 51%. Quindi il problema per sicurezza personale non è soltanto quella di non essere aggrediti per strada, ma è quella della garanzia di avere la sicurezza del lavoro, del salario, che nessuno distratta dalla casa, cioè questa è la sicurezza personale, cioè la garanzia che rimane il mio stile di vita fino a oggi. Questo dice la gran parte delle persone. Insomma, questo si sapeva, questo è quello che sono i dati. Quello che tante volte noi diciamo, ma la gente non lo sa che sta, perché non si arrabbia se non sa che sta male? No, lo sa benissimo, lo sa che sta male, lo sa. Qualunque inchiesta, questa è una delle tante, ne sono uscite tantissime. La gente sa che sta male, ma non, l'unica cosa che non sa è che cosa può fare per cambiare questa situazione. Sa che sta male, sa che le cose peggioreranno e sa che il futuro è nero in tanti sensi, eppure non è sicura che un percorso di conflitto, di lotta, di scioperi, di manifestazioni eccetera possa migliorare. Questo non ha, l'hanno convinta che non si può migliorare, quindi si lamentano, casomai cercano una sigla per poterla votare, per illudersi che cambiando qualcosa. E però non si organizza, non si auto-organizza con altri come si faceva una volta, come si è sempre fatto, per dire vabbè, mettiamo in modo un conflitto e cerchiamo di portare a casa qualche risultato. Questo non lo fanno più, l'hanno abituati, ci hanno convinto, ci hanno, è inutile dire, ci hanno convinto.